Grazie, grazie Aldo. Adesso facciamo intervenire per Paolo Poggio, anche se ha un intervento laterale, non so, vabbè, perché intervento autonomo. Per Paolo Poggio, che altre volte è venuto qui in Crusca anche in altre centri sociali, direttore della Fondazione Micheletti, un posto magnifico che c'è a Brescia, un archivio straordinario, come vorremmo avere tutti noi nei centri sociali, della storia dei movimenti, del movimento operaio, di molto altro ancora. E poi dopo credo che con Alberto Buggio riprendiamo. Uso questo, sì. Ecco, allora, su globalizzazione, mondializzazione, post-fordismo, rivoluzione permanente della tecnica e dell'organizzazione del lavoro, rivoluzione permanente del capitale, abbiamo sentito già dall'intervento di Aldo e poi tutte le cose che sono state scritte. Ecco, io volevo sviluppare corollare alcune riflessioni partendo da questo scenario. Un primo elemento, cose anche banali, mi scuso, con chi già sa quasi tutto. Un primo elemento contraddittorio: l'enorme aumento di produttività determina una liberazione dal lavoro nella forma della disoccupazione strutturale, quindi avanzamento tecnologico e regressione sociale. Gli effetti liberatori del progresso si capovolgono nel loro contrario: mancanza di lavoro e allungamento dell'orario di lavoro, flessibilità e precarizzazione, tendenza alla subordinazione assoluta del lavoro rispetto al capitale, de-emancipazione, diffusione di forme di lavoro neoservili. La condizione del lavoro dipendente, la sua sconfitta quindi politica e culturale, sono tali oggi da dedurne la fine del movimento operaio storico in tutte le sue varianti, il che non esclude una lunga lotta di resistenza di tipo corporativo. Non c'è niente di sprezzante nell'esempio. Il movimento operaio si riduce alla sua dimensione sindacale in uno scenario che potremmo dire appunto americano. Ma non c'è solo il lavoro dipendente. Sergio Bologna, già più volte evocato, da qualche anno sta tentando di farci capire l'importanza del lavoro autonomo dentro il post-fordismo dispiegato. Ecco, qui ci sono dei blocchi cognitivi. Non è facile collocare storicamente, culturalmente e politicamente questa figura sociale. Nell'ottica del movimento operaio, in cui mi identifico in questo momento, c'è un pregiudizio sfavorevole. Pensate al rapporto disastroso con i contadini piccoli proprietari, alla piccola borghesia, ai bottegai e così via. Anche con gli artigiani le cose sono andate bene solo nella fase ottocentesca, a metà tra anarchia e social riformismo. Ora, adesso siamo in un'altra epoca. Però resta un'oscillazione. La diffusione del lavoro autonomo rappresenta una ulteriore tappa della presa che il capitale esercita sulla società. La democratizzazione e generalizzazione della forma impresa a livello dei singoli individui, quindi il massimo di integrazione e di antisocialità. Oppure, al contrario, un potenziale di lotta, di autonomia appunto, nei luoghi più avanzati della modernizzazione, e ciò perché in primo luogo l'autonomia d'impresa è fittizia e maschera sfruttamento e autosfruttamento a carico di soggetti collocati in una posizione appunto strategica. E che sembra che lo diventerà ancora di più se è giusta la diagnosi, la prognosi, secondo cui nella competizione globale di cui sopra la risorsa decisiva è già oggi e sarà sempre di più il cosiddetto capitale umano. Questo è il primo punto. Secondo punto, i critici dell'assetto sociale e politico di questa fine secolo hanno coniato l'immagine del pensiero unico per disegnare l'ideologia dominante e la sua potente presa sociale anche sull'immaginario collettivo. Ma chi non condivide il pensiero unico come e dove si colloca? Ecco, qui a mio avviso, e forse questo incontro serve anche in tal senso, bisogna prendere atto di differenze profonde, oltre che di fenomeni non trascurabili, quali l'interscambio non sempre consapevole tra critiche di destra e di sinistra. Ma a me è già capitato, scrivendo piccoli articoli, di sottolineare il rischio, a mio avviso più accentuato in Italia, che la sinistra, intendiamoci, volontariamente se si pensa alle grandi organizzazioni, comunque che la sinistra si trovi espropriata della critica al capitalismo, da lasciare alla destra, perché chi critica il capitalismo è un reazionario, e qui ovviamente siamo dentro il pensiero unico. Ma c'è un'altra possibilità, ovvero che la sinistra, consapevolmente o meno, sia ridotta ad utilizzare gli argomenti e a rifarsi ai valori del pensiero di destra. Pensate un personaggio come Alain de Benoist, che finalmente adesso entrerà anche in pompa magna in Italia, che su queste cose è da prendere con grande attenzione. In certi casi, poi, l'incontro tra la sinistra ex rivoluzionaria e il pensiero di destra non comporta nemmeno l'adozione della piattaforma anticapitalistica. Ad esempio, in nome dello Stato ultraminimo, libertari e liberisti si incontrano senza imbarazzi. Oppure, altra variante, in nome del differenzialismo neoetnico, cioè un razzismo politicamente corretto, l'ex nuova sinistra si trova in sintonia con il federalismo integrale leghista, in realtà di chiara ascendenza nazionalsocialista. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, anzi, una mappa sistematica dei luoghi e dei temi che fungono da crogiolo sarebbe, a mio avviso, utile, soprattutto per chi non intende seguire questa prospettiva postmoderna della confusione totale, ben al di là del debole steccato destra-sinistra. Terza considerazione. Allora, anche al di fuori dal pensiero unico e dalla confusione sistematica, è giocoforza prendere atto che le posizioni critiche restano tra loro molto lontane. Anzi, a mio avviso, l'atteggiamento forse intellettualmente più diffuso negli ambienti alternativi italiani non segna affatto una discontinuità con l'esistente. Riprendendo una posizione tipica del vecchio movimento operaio, sposa le forme più avanzate o estreme della modernizzazione con una sorta di feticismo per la tecnologia e propone un salto immediato in una realtà altra, che si può anche chiamare comunismo, nell'indifferenza peraltro generale. L'opposto simmetrico è rappresentato da coloro che si sottraggono totalmente, o almeno cercano di farlo, con un'uscita dal mondo spesso intrisa di manicheismo, quindi una conversione dalla rivoluzione alla religione. Scelte, intendiamoci, tutte le une e le altre rispettabili, ma che non possono o non vogliono avere un significato e una incidenza politica e sociale. Ben diverso è il discorso per il neocomunitarismo, che propone alle società, anche alla nostra, una possibile via d'uscita di fronte alla fallimentare dialettica novecentesca tra Stato e mercato. In questo caso l'elaborazione ideologica ha una sua antica e importante genealogia dentro il movimento operaio, soprattutto delle origini, ma molto al di là di esso e al di fuori della modernità. È un'ideologia che non gira a vuoto, ma pesca nella realtà prodotta dall'economia generalizzata e pensa di trovare nella società civile le risorse per resistere al crollo della forma Stato e del soggetto politico organizzato. Contemporaneamente cerca di sottrarsi all'invadenza del mercato, alla mercatizzazione integrale o, come diceva appunto il citato Habermas qualche anno fa, alla colonizzazione dei mondi vitali. Più concretamente, però, il neocomunitarismo dovrebbe farsi carico della crisi irreversibile dello Stato sociale. Queste posizioni e le attività a cui si rifanno debbono essere attentamente valutate, perché hanno un peso sociale ed economico rilevante e crescente. Il dibattito è iniziato e, a mio avviso, va tenuto aperto su due versanti, sia quello teorico generale che quello delle analisi determinate, circostanziate, con tutti i rimandi possibili. Di fronte alla richiesta esplicita di cambiare la legge fondamentale per adeguarla all'ideologia del mercato, citato Romiti, che oggi tutti i rappresentanti della nazione accettano in via preliminare, conviene collocare questo confronto nel contesto reale e quindi all'interno di minoranze seppure non marginali, cioè il richiamo alla nostra reale dimensione che già faceva Aldo. Un primo punto riguarda il conflitto politico-sociale, vale a dire il passaggio da lotte di resistenza ad una conflittualità sul terreno che non è stato ancora occupato dall'economia di mercato o che ad essa vuole sottrarsi. È giocoforza notare che da noi siamo ancora all'interno di una fase in cui il disinvestimento ideologico, materialmente l'abbandono del conflitto, ha alimentato il volontariato e tutto ciò che, spero non arbitrariamente, ho disegnato come neocomunitarismo. Specularmente abbiamo assistito ad una crescente mobilitazione ideologica di interessi che si proclamano antipolitici, Lega Nord, Forza Italia, eccetera. Nella società c'è quindi uno squilibrio strutturale a destra che il governo di centrosinistra non può né vuole modificare. È proprio questa situazione che rende stimolante il discorso sul lavoro autonomo di seconda generazione, eccetera, dato che la sua collocazione parrebbe in grado di scompigliare i vecchi schieramenti. Una posizione strategica che potrebbe essere utilizzata anche di fronte alla crisi dello Stato-Nazione e alle dislocazioni geopolitiche in atto. Di fronte alle due proposte che stanno visto circolando in questi mesi, anche se leggo poco, un nazionalismo di sinistra da parte di chi si identifica con lo Stato ed un leghismo rivoluzionario da parte di chi si identifica con il movimento in atto al nord. Quindi di fronte ad una tale autodissoluzione della sinistra, i terminali intelligenti e i soggetti agenti dovrebbero almeno attestarsi su una posizione di concreto e consapevole, scusate il termine, internazionalismo, in sostanza non arretrare dal livello su cui si colloca da sempre il capitale e oggi le tecnostrutture, il sapere come motore del produrre, eccetera, eccetera. E qui però si impone una ulteriore riflessione che mi limito ad evocare. Al di là del giudizio, è un dato di fatto che si assiste ad una ripresa e riproposta dei valori e delle forme. Questo significa per alcune fondazioni aver ridotto le spese del telefono, per altre invece significa non avere soldi per pagare niente a nessuno. Preciso peraltro, per chiarire anche i termini minimi della questione, che noi come fondazione avremmo chiuso da molto tempo se una forma di non profit, cioè un rapporto, una rete amicale, non avesse sostenuto questa realtà. Questo va detto. Aggiungo però, per entrare tangenzialmente in merito al tema che mi sembrava quello di più accesa discussione, che quando ci siamo riuniti a Roma poco tempo fa, così per andare a vedere che diavolo stava succedendo, ecco, in questa riunione dove peraltro ci hanno annunciato, e mi è sembrato un segnale molto significativo, che il neo eletto ministro alla cultura aveva delegato tutta la partita delle fondazioni e istituzioni culturali al sottosegretario La Volpe, ecco, detto questo, ci hanno detto: guardate che non c'è niente da fare, ci hanno fatto due proposte. Una, che era evidentemente rivolta a un certo tipo di fondazioni, e ci hanno presentato questo depliant della compagnia Investimenti Sociali, una cosa molto Banca di Roma. Ecco, dove poi il succo della fiera era che loro, qui è un'impresa sociale che non mira al lucro, eccetera, eccetera, eccetera, ci avrebbero anticipato dei soldi per andare avanti e per pagare gli stipendi all'interesse dell'8%, che rispetto all'usura è un'ottima cosa, ma rispetto a una struttura che è costretta ad essere per statuto e per necessità non profit, perché noi non possiamo vendere, era una presa in giro. L'altro intervento, che evidentemente era rivolto più a noi, cioè gente come noi, è un'altra signorina molto gentile che ha esposto invece come possa funzionare forme di cooperative di handicappati che potevano svolgere tutta una serie di lavori interni, cioè i lavori ordinari, perché sono quelli su cui non si ottiene mai niente, perché adesso ottieni qualcosa solo se fai un progetto con molti computer, altrimenti non ti danno nulla. Ecco, allora, perché in questo modo non si pagavano i contributi. Ecco, io credo che questi aspetti siano da valutare con la dovuta attenzione, al di là dei massimi sistemi. Grazie.